Sono sicuro che in una qualsiasi discoteca del pianeta ci si possa divertire, ballare, ridere, cantare, fare tutto quello che si vuole. Ma sono altrettanto sicuro, purtroppo, che alle volte si esagera coi vizi, l'alcol, le droghe. Fate sì che qualcuno di voi, quando si mette al volante, sia sobrio, ok? Così lì domani potrà dire: sono stato bravo ieri sera, ho evitato di fare del male a me e soprattutto a qualche povero disgraziato che si sarebbe trovato sulla mia strada. Ragazzi, la vita è cara, non buttatela via. La vita è cara, non buttatela via.